Mangiava Michela Navarria, che abitava da solo verso lo stremo del paese, in una casa che era tutta circondata da puntutissime agave e da spenose piante di papello. E la gente diceva che quello era il posto giusto per lui. Zamati ci avvicinavi, capace che a tradimento ti arrivava una frecciata a parole che potevi giurarci sicuramente se ne andava in suppurazione. Tanto fele e veleno quell'uomo si portava addosso per natura. Mangiava Pace Imbornone la sua solita minestrina con mezza dozzina di uova rotte dentro, mentre in cucina stava in calore il mezzo capretto infornato e sotto il rubinetto al fresco il mezzo cocomero d'acqua. Di tutto ne mangio sempre metà, così dopo mi sento leggero. Pure lui, come Michele Navarria, mangiava solo, ed era logico che per un barrino. In cucina ci badava Filippa, la sorella del sacrestano. Sebbene non avesse né fratelli né sorelle, in paese aveva riconosciuto come nipote quattro giovanotti che con lui erano proprio una stampa e una figura. Tutte e quattro avevano magari lo stesso berretto nero e peloso al lato, alla parte sinistra del naso. Misteri dal sangue, che soprattutto in Sicilia pare seguire lo stesso sotterraneo e tortuoso percorso delle anguille. Mangiava Ciccio Locascio, che l'aveva giurato a morte a Don Totò Barbabianca per l'inganno della miniera trasatta. E malgrado le proteste di sua moglie Elvira, si era riempito il raso un bicchiere di vino. Era 20 anni che non assaggiava più per colpa delle pietre di fegato. E ora, a piccole sorse, fra una portata all'altra, se lo gustava leccandosi le labbra. Mangiava Filippo Ingrassia, che era inteso poeta dal momento che durante le elezioni dell'anno avanti aveva declamato 4 versi destinati a popolare consenso. Abbiamo mangiato, abbiamo bevuto, a basso gallo, vivo scaduto. E magari ora gli ballavano in testa disordinate rime, un epitaffio da comporre a tempo entro la serata per sistemarlo sulla tomba della ditta Barbabianca. Mangiava Paolo Attard, che abitava al piano di sopra di Filippo Ingrassia, rivale a morte in politica di Ingrassia. Quando si incontravano per le scale era sempre un problema, dicevano sempre di cambiare casa, ma l'abitudine e la lagnosia erano più forti. Aveva neutralizzato la quartina di Filippo Ingrassia con una geniale sparagnata di fosforo. Abbiamo mangiato, abbiamo bevuto, viva gallo a basso scaduto! Tanto invertendo l'ordine dei fattori, il prodotto non cambia. Aveva commentato, sentendo questo duello poetico, il marchese Curtò de Baucina, che ora stava mangiando un passato di verdura e un bicchiere di latte. Tutte uguali in politica, tutte pronte sempre a inculare il popolo. Mangiavano tutti. Non mangiò invece Don Angelino Villa Savaglios, che nel suo terrazzo prima si era cotto al sole e ora si era fatto dare una coperta da Nino perché veramente